Bună seara, cari ascultatori. Benvenuti, signore e signore, va ora in onda su questa radio Clandestino Chief. Добрый вечер, дорогие слушатели. Рады приветствовать вас на нашем радио Clandestino Chief. Buonasera, buonasera, benvenuti a questa ottava puntata di Clandestino CID in onda dal laboratorio politico Aulokupata P2. Sono le 21.46, tempi ottimali, finalmente anche all'ottava puntata cambia qualcosa. Sarà il caldo degli ultimi giorni. Andiamo subito a presentare gli ospiti di stasera, che direttamente dalla Russia arrivano qui nello studio sotto le stelle Clandestino CID. Partendo dalla mia sinistra abbiamo Olga. Buongiorno Maria. E poi alla sala macchine è il mitico che stasera si è fatto anche bello, ha fatto la barba finalmente, Beppone. Buonasera, buonasera a tutti. Partiamo con il primo pezzo, che è... Qual è, Ciccio, il primo pezzo? Allora, il primo pezzo, vabbè, lo dedichiamo ai nostri ospiti, Mother Russia degli Iron Maiden. Thank you. E si ritorna in studio, si ritorna in studio, Clandestino CD. Ricordiamo a tutti che è possibile interagire con noi con il nostro profilo Facebook Clandestino CID, oppure inviando un'email che Peppe giornalmente legge su clandestino.cid@gmail.com, oppure per via Skype su clandestino.cid. Naturalmente vi dico questo perché se nel momento in cui qualcuno di voi volesse comunque mandare dei messaggi anche per scoprire qualcosa della Russia, ha tutta la possibilità di farlo, perché comunque siamo online per questa sera per voi. Se Peppe mi dà il via a partire con l'intervista alle nostre ospiti, e l'intervista vabbè, iniziamo dicendo come mai la Calabria, perché siete qui. Questa non è proprio la nostra scelta, perché tra la nostra università c'è scambio solo con l'Università della Calabria, ma abbiamo scelto Italia. Questo, questo volevamo fare da tanto tempo. E anche in Calabria ci troviamo bene. Io uguale con questo programma di scambio. Sì, io volevo in Italia, ma non sapevo dove meglio, sud, nord. E non avevo scelte, per questo Calabria, proprio Cosenza. E qua abbastanza bene, mi piace tutto, vicino al mare. Interessante studiare, c'è tanta gente straniera. Ok, vorrei sapere una cosa magari a livello personale vostro, le prime impressioni appena siete arrivate qui, cioè come siete state accolte, oppure le differenze che avete notato, differenze che comunque vi hanno fatto pensare a qualcosa, non lo so, oppure è stato tutto facile, così rosse e fiori e caldo tutto il giorno. All'inizio era un po' strano perché la cultura è diversa, anche per esempio da noi è tutto impreciso, in Italia ci sono tante cose in ritardo e questo siamo già abituati, ma prima era un po' strano, ma anche caldo, tanto caldo qua, all'inizio siamo scioccati di attenzione, tante persone da noi come stranieri, perché perché anche siamo strani per tutti i collaboratori. Come mai? Non lo so, si vede che siamo non italiani. Per questo anche persone chiedono da dove, perché siamo qua, cosa studiamo. Mi piace questo perché tutte le persone sono molto socievoli e sono interessano di nostra esperienza. Allora, anche per esempio per italiani erano molto strano quando noi abbiamo fatto bagno anche in ottobre, anche in marzo, e loro guardano e come mai, già freddo, ancora freddo, ma per noi era già caldissimo. E prima quando siamo arrivati in Italia era abbastanza difficile studiare perché quasi non sapevamo lingua, e dovevamo studiare tutto in italiano, tutto tradurre, leggere, davvero molto molto difficile. Adesso già molto più facile. E cosa ancora? Non so. Sì, va bene. Quindi attualmente diciamo che con il caldo di questi giorni voi state proprio male. Sì, stiamo morendo di questo caldo. Ok, io vabbè vorrei sapere una cosa, dove è collocata la vostra città e come si chiama in Russia? Mosca. Anch'io da Mosca. Direttamente dalla capitale questa sera per Clandestino CID. Parlateci un po' di Mosca, com'è Mosca? Cioè io ho visto soltanto in foto ed è bellissimo, qualche reporter così in televisione. Mi piace tantissimo Mosca. Mosca è davvero bella città, ma anche piena di tutto, piena di persone, diverse nazionalità, cultura, e anche piena di cose da fare. È anche interessante il modo turistico, il modo storico. Secondo me la Mosca è città quale sempre in movimento. Tu non hai tempo per niente, è sempre, sempre, sempre in movimento. Ma secondo me non la città per vivere tutta la vita. Per periodo quando sei giovane sì, per fare qualcosa, per studiare, lavorare. Ma dopo forse 50, 60 anni, secondo me devi andare via. Quindi diciamo che è una città molto caotica, la consigliate ai giovani? Sì, città molto caotica e non si può riposare. Per questo andiamo in regione di Mosca, a Campania. Purtroppo da noi non c'è mare. Un pacco. Invece in Calabria il mare c'è, vi piace? Sì. Dove siete state? In tutta Italia siamo stati molti posti. Per esempio sono stata in Calabria, a Reggio Calabria, anche Capri, Napoli, Roma, Firenze, Bologna, altre città. Abbiamo girato un po'. Vi va di dire tutta questa storia vostra, perché ne parlavamo prima, no? Di come viaggiate in giro per il mondo? Noi viaggiamo sempre con autostop. Viaggiamo con autostop e anche couchsurfing. Non so se tutti i nostri ascoltatori hanno già sentito di questo sistema, ma sempre facciamo così perché anche più economiche è un'altra ragione più importante per noi, che si può incontrare altre persone interessanti con sua esperienza. Mandiamo il primo pezzo dei nostri ospiti e non lo so se Maria Olga, qualcuno lo vuole presentare. Ah, ok. Ascoltiamo una canzone russa per studenti, anche molto attuale, perché anche questo cantante si dice che... Questa canzone dice che un ragazzo deve partire per studiare in un altro paese. E questo cambia tutta la sua vita e anche lui guarda questo con... allegria attuale. Perfetto, Beppe, suona. Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами, плачь ты ж, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки и покинем отчий дом. Отстаю, держу весло, через миг печалю, сердце бедное свело скорбью и печалью. На тихо плещется вода, голубая лента, вспоминайте иногда вашего студента. Много зим и много лет прошли мы вместе, сохранив святой обет. Ну так будьте же всегда живы и здоровы, верю, день придет, когда свидимся мы снова, всех вас вместе соберу. Если на чужбине я случайно не помру от своей латыни, еще если не сведут с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки. Если те профессора, что студентов учат, коремыку школяра, нас смерть не замучат. Если насмерть не убьюсь, что вряд ли, на хмельной пирушке обязательно вернусь к вам, друзья, подружки. Вот встает, значит, держу весло, через век качаю сердце бедное цело скорбью и печалью. Студента. E si ritorna in studio dopo aver ascoltato questo bellissimo pezzo in russo. Il titolo era? Песенка студента. È canzone di studente. La vogliamo dedicare a tutti gli studenti? Sì, che studiano in un altro paese. Perfetto, perfetto. Anche noi studiamo in un altro paese, quindi ce la dedichiamo a tutti, anche ai studenti pendolari che vivono giorno per giorno le disgrazie della caoticità di Cosenza. Peppe, ti lancio la palla. Fai un saluto. Un saluto a tutti. Vabbè, siamo qui stasera, come al solito, di fronte all'aula più occupata, che è con la nuova, con l'ottava puntata di Clandestino Cid. Niente, non lo so. Come pure io viaggiavo a passaggi quando ero più giovane come loro. Però loro girano l'Italia, io andavo a scuola, al massimo facevo 30 km. Quindi un pochettino diverso. Però è sempre una bella esperienza, perché conosci persone diverse. Molti hanno paura di viaggiare a passaggi, però secondo me se uno ti dà un passaggio è una persona tranquilla di solito. Voi vi fidate delle persone che vi danno i passaggi? Ma noi sempre guardiamo chi sta guidando, perché se per esempio vediamo due bastardi in macchina strana, non, sicuramente non andiamo con loro, ma di solito fermano ragazze, ragazzi, ragazze, gente normale che vogliono aiutare, sempre dopo dicono forse vuoi qualcosa per mangiare, forse posso aiutare per non so, con qualcosa. Anche molti gente lasciano sui numeri, dicono per caso se successe qualcosa puoi chiamarmi. Però che gentili, immagino anche, cioè, quindi avrete sicuramente viaggiato con camionisti anche, no? Persone che guidano mezzi pesanti, camion. Solo una volta. Di solito fermano macchine normali, piccole. Vabbè, era più avventurosa la cosa, diciamo, con il camion. È più da film. Sì. Più, come, più leggende. Sì, più leggende. A proposito, vorrei salutare un camionista che stamattina, lo sapete che cosa mi è capitato? Mentre scendevo all'università c'era sto camionista che aggiustava il proprio camion, gli era caduto il portafogli. Ed era per strada il portafoglio. Io subito, Peppe, guarda che brava persona, no? Poi di te sono andato a chiamarlo per prendere il portafoglio. Comunque lo vorrei salutare perché era davvero, aveva uno sguardo disperato nel nell'aver pensato di aver perso veramente il portafoglio. Io, vabbè, avevo letto una notizia giorni fa, il 6 luglio. Praticamente, che cosa è successo? In Afghanistan un pilota su un Apache ha ucciso un civile cantando praticamente il Bye Bye Miss American Pie di Madonna. Cioè, mentre lanciava il missile cantava questa canzoncina Bye Bye Miss American Pie, il Pentagono adesso è imbarazzato. Non lo so, ragazze, volete commentare questa notizia? Magari anche dire qualcosa allo zio Sam? Peppe, ti lancio la palla a te. Vabbè, sulla guerra in Afghanistan e tutte le guerre in generale non possiamo che essere contrari, no, di clandestino. Queste guerre che sono frutto soltanto di imperialismo, di colonizzazione da parte degli Stati Uniti e dell'Europa per i paesi sottosviluppati, come vengono chiamati. Purtroppo ancora oggi vediamo questa invasione da parte di questi stati più potenti che vanno a uccidere le popolazioni più deboli, perché li devono prendere le risorse, perché vogliono conquistarli, e poi trovano la scusa della, delle armi di distruzione di massa e cose varie, come è successo in Iraq. Si inventano la storia di Bin Laden e cose del genere. Voi come la pensate a proposito della guerra? Ma a me in generale questo tema non è interessante. Secondo me in Afghanistan, in Iraq, c'è sempre, sempre qualcosa da succedere. E adesso già non è interessante vedere tutto questo. Mi dispiace per questo paese che è sempre in guerra, perché io sono pacifista e io non capisco queste cose, ma non posso dire niente perché anche non capisco, non ragione, né, niente di questo. E secondo me non, già nessuno capisce che c'è. Sì, ma a proposito io vorrei sottolineare proprio il fatto della, della leggerezza che ormai ha la vita di un uomo. Cioè questo militare che spara con un'arma potentissima, uccidendolo, praticamente cantando una canzoncina, proprio come se, non lo so, spicciasse una nocciolina, una cosa futile futile. A proposito io vorrei mandare un pezzo che... gli artisti sono Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù. E il nome di questa canzone, il mio nome è mai più, contro la logica della guerra mondiale. Buon ascolto. Etnie, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione così sia. A pochi mesi da un giro di boa per voi così, modello. C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora. E voglio il nome di chi si impegna fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogni. Sogni. Sogni. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è... Seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare. C'era una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino. E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe. Bombe. Bombe. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più. Si può saper convivere è cura, già lo so, e per questo il compromesso è la strada del mio crescere. E dico sì al dialogo, perché la pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che dà un peso al nostro vivere, vivere. E dico sì. Dico si può cercare pace, l'unica vittoria, Cristo in ogni senso che darà forza al nostro vivere. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più. E ritorniamo in studio andando a intervistare di nuovo le nostre ospiti dalla Russia. Praticamente prima si parlava anche dei giochi russi, della roulette russa. No, perché l'altra volta mi è capitato di vedere praticamente fare il gioco della roulette russa con le uova. Praticamente avevano fatto tantissime uova sode. E tra quelle sode ce n'era una che non era soda, no? Praticamente dovevano sbattersene sulla fronte e poi... Solitamente si usa diversamente in Russia. Io non sapevo questo prima, ma è divertente davvero, è meglio che roulette russa tradizionale. Sì, sì, infatti con le uova mi è piaciuto tantissimo anche a me. Parliamo di cose un po' più serie che prima le nostre ospiti ci accennavano per quanto riguarda l'uso di internet nella vostra terra. Praticamente ci parlavate di una sorta di censura. Ah sì, perché adesso Wikipedia, secondo me tutti conoscono questo sito, in lingua russa è chiusa perché il Parlamento adesso sta discutendo per fare una censura di tutta informazione aperta in internet. Ma anche questo processo di Wikipedia contro questa decisione, per questo è chiusa. Ma non c'è senso secondo me, perché se facciamo censura per tutto che c'è in internet, anche dobbiamo fare censura per tutte le cose che dice il nostro governo, perché non possiamo chiedere anche in questo. E le vostre considerazioni al riguardo quali sono? Cioè, cosa ne pensate di sta cosa? Viene denunciata in Russia il fatto della censura? Ci sono manifestazioni, lo so. No, manifestazione non è una cosa popolare in Russia, non funziona. Ma credo, spero che non fanno questa censura. Perché invece non... Allora, ma Wikipedia fa una programma per come tipo di manifestazione, dicono in siti sociali tipo Facebook o altri che forse voi passate a leggere qualcosa in Parlamento o qualcos'altro per fare aprire di nuovo, perché è davvero non comodo. Io qua in Italia sto leggendo qualche termine in italiano e voglio leggere anche in russo e non posso. Incredibile. Ma una cosa di manifestazione, cosa ha detto Olga? Sì, non popolare, ma per esempio dopo che hanno scelto il nostro presidente erano tante manifestazioni. Ma alla fine non hanno cambiato niente. Vabbè, come quello che succede in Italia, si fanno tante manifestazioni ma non si cambia niente, anzi si ricogliano sul palazzo. No, alla fine, vabbè, comunque è sempre un modo per manifestare la propria voce, il proprio dissenso, dire la sua nei confronti, cioè un popolo nei confronti del proprio governo ha il diritto, comunque il sacrosanto diritto di dire la sua. Peppe, tu vuoi aggiungere qualcosa? Sulla censura, la censura che sta per avvenire in Russia è simile a quella che c'è in Cina ora. In Cina ci sono dei filtri sui vari siti internet, quindi... Aspetta. Quindi se tu vai su un determinato sito che al governo non piace, loro ti mandano o ti disconnettono oppure ti mandano una pagina di errore o ti mandano su qualche altro link. Anche in Italia ci sono dei filtri del genere come Pirate Bay e altri siti vari che però si possono facilmente aggirare con un proxy. purtroppo la censura al giorno d'oggi vige in tanti stati. È una bisognerebbe lottare contro questa censura, perché ognuno deve sentire le varie fonti che parlano di una notizia. Non possiamo sentire soltanto le fonti che vanno d'accordo con il governo, quindi se si arriva al punto della censura bisogna ribellarsi e scendere in piazza e protestare per questa cosa. Anche questa censura non sembra come ritornare al nostro regime che era prima, ma siamo adesso già nel mondo più libero, pensiero di parlare, cosa strana. Vi volevo chiedere una cosa, ma tipo siti social network o YouTube in generale anche ha una sorta di censura oppure è libero? Ancora non c'è censura, ma fra poco chissà. Va bene, ascoltiamo un altro pezzo delle nostre ospiti. Ce lo presenti, Olga? Ok, ascoltiamo una canzone russa che dice di un sentiero forte, come, non lo so, come per una donna molto molto manco un uomo. In generale questo. Ma non solo uomo, in generale manco una persona. Va bene, Peppe, suona, pure il russo. Катастрофически тебя не хватает мне. Жгу электричество, но не попадаю я. Воздух толчками, пульс на трещон там. Бьет в переносицу, я знаю, все знаю я. Но катастрофически тебя не хватает мне. Катастрофически тебя не хватает. Где-то есть корабли у священной земли. И горячие губы твои. Мы срослись плавниками, срослись плавниками. Камикадзе выползают на отмель, чтобы в лёд задохнуться, чтоб не долго по краю, а мансин здорово умираю. Катастрофически тебя не хватает мне. Жгу электричество, но и не попадает. Воздух толчками, пульс нам еще так. Бьет переносицу, я знаю, все знаю. Но катастрофически тебя не хватает мне. Катастрофически тебя не хватает. Tornando in studio, andiamo sotto le note della canzone romantica, amorosa, russa. Andiamo a salutare tutti gli amici che ci ascoltano direttamente dal Golfo di Squillacelo, Caltasellia Marina, Daniel Crivaro, poi da Roma Federica, Andrea che ci ascolta anche da Cosenza. Ritorniamo in studio e niente, continuiamo a discutere con le nostre ospiti. Con le nostre ospiti. Praticamente prima si trattava il tema della censura che c'è in Russia. Adesso vorrei farvi una domanda. Cioè, si parlava della censura comunque che è dettata dal governo, che si sta decidendo. Quindi che tipo di governo c'è adesso in Russia? Cioè, il popolo come vive la situazione attuale politica in Russia? Secondo me la situazione politica reale è un po' diversa da questo che è scritto nella Costituzione. Ma non è una repubblica parlamentare, non so come in italiano. Repubblica parlamentare, va bene. Ma in generale noi adesso non abbiamo scelta. Perché erano voti del presidente, primo voto del parlamento, votazioni. Sì. C'è solo una parte tra quale noi possiamo scegliere presidente. Non c'è nessuno normale chi noi possiamo scegliere, solo una persona. Nessun altro. Ma anche dopo la votazione internet sul sito diverso c'era forse scherzo, forse la verità, che il percentuale era di più che di 100%. Anche una cosa strana, perché tutti pensano che votano per persona altra, ma alla fine presidente sempre lo stesso. Un po' come è successo a Catanzaro ultimamente, Peppe, con le votazioni. Sì, penso che sia successa una cosa molto simile, la cosa che succede tuttora in Italia. Diciamo che la gente crede di andare a votare per qualcuno, ma chiunque va al governo fa sempre le solite porcate, sia PD che PDL. Ora addirittura abbiamo un presidente che non è stato nemmeno eletto, che è Monti, che sta facendo macelleria sociale, sta mettendo tasse su qualsiasi cosa, tra poco metterà la tassa pure sul respiro. Ma non so dove andremo a finire, purtroppo. Si parla sempre di crisi, tagliamo, si taglia sempre sulle parti più deboli, non si taglia veramente dove ci sono i veri sprechi. E niente, mo andiamo al prossimo pezzo. Il prossimo pezzo che è dei Doors, Love Me Two Time. love me two times. I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, baby. 'Cause I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one kiss for today. Eccoci ritornati qui sempre sotto le stelle che purtroppo non si vedono a causa inquinamento luminoso. Parlavamo poc'anzi della Transiberiana, la ferrovia Transiberiana, che è la più lunga al mondo, che collega Mosca a Vladivostok, mi sembra che si pronunci. È una dura 8 giorni il percorso, diciamo, da Mosca a Vladivostok sul Pacifico, più o meno quanto impieghiamo noi quando dobbiamo prendere il treno per muoverci dalla Calabria a muoverci nelle altre zone d'Italia, soltanto che facciamo un po' meno di chilometri. Non so, voi l'avete mai presa questa Transiberiana? Io mai presa e anche non voglio prendere. Se mi serve andare in altre parti di Russia, secondo me è meglio prendere aereo per non perdere tempo. E anche il treno di Russia non molto comodo. Sentito tante volte da molti miei amici stranieri che vogliono provare questa esperienza, questa avventura, ma secondo me non vale la pena. Vabbè, non lo so, ognuno conosce i propri treni della propria, diciamo, nazione e sa quali sono gli effetti negativi delle ferrovie. Ciccio, tu la prenderesti mai la Transiberiana? Certo, perché no? Anzi, lancio il messaggio a tutti i nostri ascoltatori, magari, non lo so, il prossimo anno ce ne andiamo in Russia e ci rinfreschiamo un po' le idee. Comunque, leggevo una notizia molto grave per gli amici di Milano. Emergenza topi nel capoluogo lombardo, ce ne sono 13 milioni. Se qualcuno ha un'idea per sconfiggere l'emergenza topi a Milano, chiami al numero 33. No, va benissimo, va benissimo. Ci dispiace per Milano. Prima Olga mi diceva che tipo è stata a New York, un paese che ci sono anche tantissimi topi. Secondo me questo è un problema di grande città, perché sempre c'è, ma sì, anche a Mosca c'è, ma in grande città sempre ci sono topi, perché forse spazzatura o qualcosa, non so, c'è questo problema. Tipo, ricorda a Napoli quando c'è stata l'emergenza rifiuti, ce n'erano tantissimi, la vita, cioè la situazione era invivibile davvero. Un'altra, prego Peppe. La soluzione ce l'ho io. È apparso sul giornale Il Quotidiano della Calabria qualche giorno fa. La notizia diceva così: gatto assale cagnolino e due donne che sono rimaste ferite. Questo gatto in pratica ha aggredito un cane e due donne che poi hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. Chissà questo gatto com'era pericoloso, forse era una tigre, quindi questo gatto secondo me potrebbe sconfiggere i topi di Milano. Quindi optiamo per la clonazione di questo gatto, cioè è da Montepaone, lo mandiamo subito a Milano. In Russia capitano queste cose, cioè che i gatti facciano del male ai cani, alle persone. Buonasera. Io mai sentito male. Penso che ci siano. Ok. Magari ragazze, se vi serve un gattino del genere per portarlo a casa. Un regalo di Italia. Un souvenir. A casa mia già c'è gatto a Mosca, è gatto molto carino e non mi serve questo pericoloso. Ok Peppe, quindi magari, vabbè, sceglieremo a chi mandarlo il gatto. Peppe, andiamo avanti con la musica questa sera, musica vera e strabiliante. Che ci fai ascoltare, Peppe? Andiamo un pezzo di Andrea Dolce Nera. Ma nessuno. Amia la cumale, amia la cumale. nera che porta via, che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera di mala sorte che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna, nera di falde amare che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta, acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale, acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda. Acqua di spilli fitti dal cielo e dai soffitti, acqua per fotografie, per cercare i complici da maledire, acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi? Sera che adesso si ritira, passa sfila tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni cielo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare. Dopo questo splendido pezzo di Fabrizio De André, torniamo qui sempre nel nostro studio all'aperto a parlare ancora con le nostre ospiti della Russia. E, sapete della notizia dell'altro giorno che sul Mar Nero c'è stata un'alluvione che sono morte un sacco di persone. Voi come l'avete vissuta questa notizia da qui dall'Italia? Sì, lo sappiamo, ho visto su internet... secondo me è la prima volta in queste regioni quando è successa questa cosa. E poverina gente che abitano là, anche ho visto che queste regioni forse distruggono più di una città. Questo davvero molto molto dispiace. Eh sì, appunto questa canzone, Peppe Dolcinera, parla dell'alluvione avvenuta a Genova, quando? Non mi ricordo l'anno, comunque parla sia una storia d'amore dell'alluvione avvenuta a Genova. Alluvione che a Genova anche l'anno scorso, come qui in Calabria, in Sicilia, che ha devastato un po' tutto i nostri territori. Diciamo che questi territori sono anche devastati da causa dell'abusivismo edilizio. Si costruisce dentro i fiumi, si costruisce in zone che tagliano gli alberi, quindi poi le montagne vengono giù e poi ce la prendiamo con il tempo. Ma il tempo, se noi lasciamo gli alberi nella loro zona, le montagne non viene giù. Se noi non costruiamo nel fiume, il fiume quando è sonda dopo rientra, quindi rispettiamo anche la natura quando costruiamo. Sempre, sempre rispetto alla natura. E a proposito comunque delle questioni di abusivismo, cioè di quello che non funziona, prima le nostre ospiti ci parlavano appunto del fatto che comunque del cambiamento che avete notato venendo qui in Calabria, del fatto che magari qualcosa non è in orario, cioè molte cose fuori orario, tipo... Non c'è orario normale per pullman, non lo so, forse siamo sfortunati in questa cosa, ma abbiamo problemi anche treno. Per esempio da noi tutti gli uffici aperti tutto il giorno, i negozi aperti ogni giorno, ma qua si può andare a luna e non trovare niente perché è tutto chiuso per siesta. Noi non abbiamo questa cosa, anche un pranzo non abbiamo perché c'è scambiamento tra persone, è sempre aperto. Anche la gente in Italia secondo me è sempre in ritardo. Io adesso già ho capito perché questo, perché tutti sanno tutti. Di solito in piccoli paesi tu vai da qualche parte, devi fermare con un amico, con un altro, parlare 5 minuti, dopo anche 5 minuti e dopo arrivi in ritardo. Il ritardo è un pregio di noi, soprattutto meridionali, soprattutto più che italiani. Comunque Clandestino stasera è partito in orario, a dispetto delle altre puntate che siamo partiti in ritardo. Forse perché c'eravate voi russe che siete più puntuali di noi, siete tipo gli svizzeri. Siete... Noi invece ce la prendiamo comoda, dormiamo fino a tardi, poi mangiamo tardi e tutto rimandato a dopo. Beh, per chi dorme non prenda pesci. A proposito di pesci, vorrei lanciare un appello per quello che sta succedendo in Corea. Praticamente si riapre la caccia alle balene, praticamente e cresce un partito in Corea stessa per la difesa delle balene, praticamente questi animali che sono in via di estinzione, che anno per anno vengono distrutti e tipo vengono anche portati in zone dove poverine trovano la propria morte. Anche nei paesi del nord, Mar Baltico, c'è questa situazione. Però se volete lanciare magari due parole per questi animali. Purtroppo io non so come questo funziona da noi, ma ci deve controllare che siamo di natura e non possiamo distruggere questa natura. Peppe, mandiamo il prossimo pezzo from Russia. Olga, vai. Che un'altra canzone dice che tutti partono in altri paesi per vivere e questo cantante invece rimane in Russia perché con tutti i problemi lo stesso amo il suo paese. Perfetto. ascoltiamo il pezzo. Друзья все валят за границу, а я, наверное, остаюсь. Смеюсь, напьюсь, если хуёво, жрать будет нечего. Женюсь, друзья мне пишут, как ты тут, а я нормально, супер гуд, супер, супер, супер гуд. Я нормально, супер гуд, супер, супер, супер гуд. Я нормально, супер гуд, супер, супер, супер гуд. Я нормально, супер гуд, супер. Супер гуд, я нормально, супер гуд. И никуда я не поеду, мне и в союзе хорошо. Везде мне стопочку нальют, в какой кабак я не зашел. Ведь все равно же все умрут, без разницы там или тут. Супер, супер, супер гуд, я нормально, супер гуд. Супер, супер, супер гуд, я отлично, супер гуд. Супер, супер, супер гуд, я отлично, супер гуд. Супер, супер, супер гуд, я отлично, супер гуд. Ну вот так вот. Друзья все валят за границу, а я, наверное, остаюсь. Смеюсь, напьюсь, если хуёво, жрать будет нечего, женюсь. Друзья мне все пишут, ну как ты тут? Да как я, бля, супер гуд. Супер, супер, супер гуд, я нормально, супер гуд. Супер, супер, супер гуд, я отлично, супер гуд. Супер, супер, супер гуд, я охуенно, супер гуд, гуд, гуд. E ritorniamo sotto le note di questa magnifica canzone. Olga voleva aggiungere qualcosa. Il nome di questo gruppo è Leningrad, come nome di città San Pietroburgo. Era in tempo di comunisti, perché il nome storico è San Pietroburgo. Dopo, quando è venuto un altro regime, è stata Leningrad come città di Lenin, e anche hanno cambiato altri nomi di città come Stalingrad e altri, e di solito nomi di palazzi. E adesso è cambiato di nuovo nome storico. Perfetto. E comunque parlava di immigrati questa canzone. Sì, questa canzone dice che tutti gli amici vengono in altri paesi perché lì si vivono meglio. Ma lui ama Russia, è già abituato a vivere. È come il problema dell'immigrazione, che è sentito anche dalle nostre parti, moltissimi moltissima gente che dal sud del mondo comunque va via in cerca di fortuna all'estero, quello che succede anche in Russia. E adesso in Russia c'è il problema immigrazione, perché tanti russi vengono d'Europa, America, ma in Russia arrivano immigrati di paesi ex sovietici, che specialmente del sud. E c'è anche un confronto di cultura, confronto di interesse. Non tutti i russi in generale non gli piacciono questi migranti. Come mai non gli piacciono questi migranti? Perché anche il contrasto di cultura, e questi migranti quando arrivano non sempre fanno le cose gentili. Perché nel nostro paese, ma quando qualcuno va a un altro paese, di solito rispetta sue regole e sua cultura, ma se vieni in un altro paese con tua cultura è un po' strano, c'è un contrasto. Quindi problemi anche a livello razziale, cioè. Non posso dire che in Russia c'è razzismo come una manzone, non so, ma c'è questa problema che di solito non amano persone di altri paesi, di migranti di questi paesi ex sovietici. Turisti normali di Europa, aspettiamo. Ok. Prima accennavi al periodo sovietico in Russia. Magari vuoi spendere due parole, non so come è stato vissuto adesso il cambio di generazione. È cambiato tanto, ma noi siamo nati dopo e per questo non abbiamo visto, non siamo stati in questo tempo, ma sempre i nostri genitori dicono che era meglio. Ma secondo me tutti vecchi dicono che prima era meglio. Secondo me non dicono che era meglio, perché adesso c'è di più possibilità di lavoro, di viaggiare, andare all'estero anche. Anche per esempio i miei genitori non dicono che era meglio, era diverso, davvero diverso, ma non meglio, non peggio. Vabbè, come ogni stato totalitario, comunque Peppe, c'è chi appoggia il regime, c'è chi invece se ne sa le distanze. Comunque Clandestino Cid è contro ogni sistema totalitario per la libertà dell'uomo. A proposito di libertà dell'uomo e di problemi legati al razzismo, leggevo che a Padova, precamente, che è successo in una piscina comunale, una bambina di colore è stata aggredita da una signora con parole abbastanza dure, portate tra virgolette, porta via questo negro, finimondo in piscina. Naturalmente un bambino di colore di 5 anni in lacrime, perché colpito da una donna, appunto, è venuto, cioè è stato proprio picchiato. Purtroppo il razzismo continua a dilagare nella società anche del 2012, cosa tristissima. Non vedo evoluzione sociale su questo, su questo fronte. Voi volete spendere due parole su questo problema? Forse in Italia questa situazione è più chiara che da noi, perché da noi non c'è migranti colorati, ma forse sì, c'è, ma poche. Anche secondo me tutti sono uguali davanti alla legge. Dovrebbe essere così, Maria? Anche secondo me non deve essere questa cosa che resiste, ma anche se qualcuno non ama altri colori, nomi di altri colori, secondo me è bambini poverini, perché sì, tra di donne e uomini può essere tutto, ma bambini sì, non hanno la corpo. Ok. A proposito, lanciando la palla a Peppe su questo grave problema, suggerisco anche il prossimo pezzo, che è di Pittura Fresca, è Papa Nero. Vabbè, sul problema del razzismo che viviamo in Italia tuttora, già ci sono differenze tra nord e sud. La Lega, per esempio, Lega Nord, che un partito italiano xenofobo che odia persino addirittura i propri meridionali, non solo gli africani ma gli altri extracomunitari, che poi questo extracomunitario, questo termine così brutto, sembra che uno viene dalla luna, ma in realtà gli extracomunitari sono quelli che non fanno parte della comunità europea. Anche uno svizzero è un extracomunitario, quindi. Però se tu gli dici a una persona qualsiasi l'extracomunitario, lui ti dice che viene dall'Africa, è nero. Purtroppo non ricordiamo le nostre origini, noi non ricordiamo che negli anni 30 i nostri nonni sono emigrati verso l'Argentina, verso gli Stati Uniti per cercare lavoro, perché qui si moriva di fame. Poi non ricordiamo che circa 20 anni dopo siamo andati tutti al nord Italia, o in Francia, in Germania, in Svizzera, in Belgio, a lavorare nelle miniere, a lavorare come camerieri, a lavorare come sguatteri. E quindi un popolo deve conoscere le proprie origini e la propria storia prima di parlare. Quindi se noi l'abbiamo fatto in passato, perché ora questi popoli che bisognosi di lavoro, di altre cose, no, non possono venire qua? Non ho capito che differenza c'è. Noi eravamo meglio di loro, forse. E mandiamo questo, il prossimo pezzo, come diceva Ciccio, dei Pittura Fresca, Papa Nero. Si ritorna in studio con la possibilità di avere un papa nero un giorno. A proposito di questo, niente, volevo lanciare, lancio così, tipo, come viene vista la società, diciamo, del Vaticano, da voi che venite dall'est? La religione cattolica, gli sprechi, la ricchezza che ha il Vaticano, se veramente aiuta il povero oppure tiene tutto per sé? Non so come funziona, ma a me piace che c'è questa come una barriera tra il Vaticano e l'Italia, perché come un altro paese e non si può controllare qualcosa in generale. Ma il fatto questo qua che non si può controllare nulla è proprio quello che sta al potere del Vaticano. Tantissimi anni, tipo anche, non lo so, a livello della religione stessa, no? Tanti malefatti sono state comunque nascoste. Magari quello che è stata una tragedia, anche, non lo so, una guerra, agli occhi della gente normale, per chi crede, è stata qualcosa di buono perché è fatta con la fede. Secondo me, qualsiasi persona può scegliere il suo fedele Dio, no? Anche scegliere religione, religione. Ma secondo me questa guerra che era nella nostra storia tanti, tanti anni fa, di senso una religione è una cosa strana, stupida. Tu Maria che dici? Sei rimasta un po'... non vuoi aggiungere nulla. Peppe, tu al riguardo? Beh, riguardo del Vaticano, del potere che c'ha nel mondo, ci sarebbe da parlare da ore e ore. Però diciamo una cosa abbastanza breve. Il Vaticano, che è questo stato che è creato in mezzo a Roma, quei 44 km quadri contro lui, è stato più piccolo al mondo, che in pratica c'è il Papa che possiedono le banche vaticane, che sono una delle più grandi porcherie che ci sono al mondo, sono quelle che fanno passare i soldi per finanziare le guerre in Sud America, che finanziano tutto, le armi, e poi si riempiono la bocca di belle parole sulla fame del mondo, e loro sono i primi ad avere collane d'oro, anelli d'oro, il Vaticano è ricchissimo di oro, e poi vengono a parlare di fame nel mondo dicendo che i bambini africani quella... E il Vaticano poi interferisce anche nei rapporti dello Stato italiano. Se una cosa non va bene secondo quello scritto sul Vangelo, interpretato da loro, poi che il Vangelo dice altre cose, e loro iniziano a fare una campagna mediatica dicendo di non andare a votare, tipo le leggi sull'aborto, le leggi sulle staminali e altre cose del genere. Quindi è una parte abbastanza negativa lo Stato del Vaticano in Italia. Assolutamente nulla contro la religione, ma contro lo Stato Vaticano, diciamo che sono degli affaristi, cercano di farsi anche loro di guadagnare il più possibile da qualsiasi situazione. E in Russia c'è invece c'è il patriarca, no? C'è la religione ortodossa. Come è vista in Russia questa religione? In Russia la più grande parte della gente russa è ortodossa, ma anche c'è tutti i tipi di religiosi. Sì. Per qualcuno sì, questo è molto importante, per qualcuno no. Sì, c'è come un stato, non lo so. Ma anche da noi il nostro stato è civile e non dipende dalla chiesa. Per questo è scelta ogni persona. Ricordiamo a proposito della religione ortodossa che in Aspromonte, che è una montagna che sovrasta, diciamo, il Reggino, perché siete stati a Reggio Calabria, c'è ancora una comunità ortodossa, di una delle poche che ci sono in Italia. Andiamo avanti con la musica, Peppe. Dedichiamo questa canzone, a proposito la vorrei dedicare a una donna che è stata uccisa in un villaggio dai talebani in Afghanistan, praticamente una donna accusata d'adulterio che è stata uccisa in pubblica dai talebani con 5 proiettili sparati a distanza ravvicinata. La dedichiamo a tutte le donne che comunque sono vittime di violenza. E va bene, suona Peppe. Partia di tanto lontano e ve la riditi a tanto vicino, tutti mi dinno calo mare fondo, ma per l'amore tua lo passo e vengo, ma per l'amore tua lo passo sebe nju. Di una mendula mondaga, tutti io che ti criamo, tanta pulita, quando ti vitti ti vita facciata, tu sola mi trasisti in tame vita, tu sola mi trasisti in tame vita. E aia, e a bella figliola. È fatta con la pinna e misurata con la mezza canna veniti la Sardegna, lo calamaro d'oro veniti la Spagna, lo calamaro d'oro veniti la Spagna. Veniti la Sardegna, tu calamaro d'oro, veniti la Spagna, tu calamaro d'oro, veniti la Spagna. Sonnai in un malo sonno, era malata la figliola mia. O i medici che sani o i malati, e tu sanami l'amaruzzella mia, tu sanami l'amaruzzella mia. E sotto le note di Mimmo Cavallaro ritorniamo sotto le stelle, salutando gli amici di Borgia, ascolto numerosi, Piero che sempre mi dice che la mamma comunque la T è registrata, quindi Pietro. Okay. Niente, mi è arrivata una notizia praticamente da nocensura.com. i tagli che verranno fatti alle Poste Italiane. Praticamente chiuderanno 1152 uffici, altri 634 lavoreranno a orario ridotto. Benissimo, già la posta andava una bomba qui in Italia, ci mancava soltanto i tagli agli uffici postali, no Pep? Sì, sì, ma non solo le poste, ma ospedali, statali, scuola, università, province, tutto, chi più ne ha più ne mette, tranne i privilegi della casta, quelli vengono toccati diciamo, in maniera poco o niente. Diciamo, l'altra volta parlavo, quando c'erano i ragazzi spagnoli, parlavamo del ridurre, dimezzare lo stipendio dei parlamentari, non di dimezzare i parlamentari, che ogni volta si dice di dimezzare i parlamentari, ma però lasciando lo stipendio uguale. Invece perché non dimezziamo gli stipendi dei parlamentari, oppure facciamo un quarto di quanto guadagnano, così sarebbe quattro volte un risparmio per lo Stato. Abolire le auto blu, che sono state anche tagliate, però non lo so, come poi tutti questi rimborsi elettorali, tutte queste storie che non si capisce bene dove vanno a finire. Purtroppo la sanità, l'istruzione sono dei campi che non andrebbero mai toccati, perché sono il vero futuro della nazione, specialmente l'istruzione. Se i ragazzini quando sono piccoli non hanno la scuola, che fanno? Vanno in mezzo alla strada, iniziano a spacciare, iniziano a fare altre cose, non lo so. Invece se c'è una buona istruzione possono progredire culturalmente, quindi creare una classe del domani un po' migliore rispetto a quella che c'è oggi, più colta, quindi più aperta ai cambiamenti. E la sanità è un altro settore che non andrebbe toccato, perché già siamo, specialmente qui in Calabria, gli ospedali fanno, diciamo che sono abbastanza ridotti male, quindi andiamo a tagliare questi ospedali e diciamo che le persone dove vanno, se chiudiamo gli ospedali, se uno si deve fare 40 km per andare a curarsi rischia di arrivare già morto lì all'ospedale, tipo non lo so, vogliamo chiudere l'ospedale San Giovanni in Fiore in Sila, poi l'ospedale più vicino sarebbe Crotone, che in periodo invernale la strada è piena di neve, quindi non so come vanno con l'elicottero, forse lo portano all'ospedale. Quindi rimaniamo perplessi su questa spending review, qua come la chiamano ora, che sono belli usare i termini inglesi perché così la gente non capisce poco niente, tipo il ministro del welfare. La gente non sa nemmeno cos'è, però diciamo che questi termini sono belli perché fanno audience televisiva. A proposito di questo, c'è un nostro ascoltatore che consiglia un nuovo metodo di governo e ci dice di instaurare una monarchia assoluta da Napoli in giù, forse per migliorare la situazione. Lo salutiamo, ciao Daniel. Abbiamo ancora pezzi delle nostre... Un pezzo su richiesta, attenzione. Un pezzo su richiesta da parte di Rossella, il pezzo si chiama... Vediamo, Soleil, Iri e Revoltes, scusate il francese che non è la mia madrelingua, e la mandiamo. Oh Soleil, oh Soleil, jette-toi sur ma peau, allez jette-toi sur ma peau. Che fait ça? Listen! Oh Soleil, tu m'as tellement manqué, oh Soleil, j'attends que tu sois réveillé, oh Soleil. Tu m'as tellement manqué, j'attends que tu sois levé, j'attends que tu sois réveillé au soleil. Tu m'as tellement manqué au soleil, j'attends que tu sois réveillé au soleil. Tu m'as tellement manqué, j'attends que tu sois levé, j'attends que tu sois réveillé. Je me lève de ma très très bonne heure, mon nez m'a réveillé. Est-ce que je vais faire la première chose, je vais regarder à la fenêtre. S'il y a du beau temps, c'est pourri. S'il n'y a pas de soleil, moi je reste au lit. Mais si je vois ces rayons, si je vois qui brille, je prends mon maillot et ça y est, je suis parti. Je vais voir mes potes, je vais voir mes amis. On va faire la teuf toute la nuit. Au soleil, tu m'as tellement manqué. Au soleil, j'attends que tu sois réveillé. Au soleil, tu m'as tellement manqué. J'attends que tu sois levé, j'attends que tu sois réveillé. Au soleil, tu m'as tellement manqué. Au soleil, j'attends que tu sois réveillé. Au soleil, tu m'as tellement manqué. J'attends que tu sois levé, j'attends que tu sois réveillé. Tu ne pas, moi je reste au lit. Je ne sais pas comment est-ce serait la vie. Sans ton existence, sans que tu brilles. Ton apparence renforce mon esprit. Tu donnes la force à toutes les plantes, aux animaux. T'es mon besoin avec l'air et l'eau. métro. C'est pour ça, jette-toi, lance-toi sur ma peau. Même si t'as pas d'oseille, le soleil te réveille. Tout le temps en action, jamais il sommeille. Au village et en ville, jamais il est tranquille. Tout le monde veut qu'il vienne. Au soleil, tu m'as tellement manqué. Au soleil, j'attends que tu sois réveillé. Au soleil, tu m'as tellement manqué. J'attends que tu sois levé, j'attends que tu sois réveillé. Au soleil, tu m'as tellement manqué. Au soleil, j'attends que tu sois réveillé. Au soleil, tu m'as tellement manqué. J'attends que tu sois levé, j'attends que tu sois réveillé. Je me lève le matin, très bonheur, mon rêve m'a réveillé. Qu'est-ce que je vais faire? La première chose, je vais regarder à la fenêtre. S'il y a du beau temps, c'est pourri. S'il n'y a pas de soleil, moi je reste au lit. Mais si je vois ces rayons, si je vois qui brille, je prends mon maillot, ça y est, je suis parti. Je vais voir mes potes, je vais voir mes amis. On va faire la teuf comme il y en a toute la nuit. Au soleil, tu m'as tellement manqué. Au soleil, j'attends que tu sois réveillé. Au soleil, tu m'as tellement manqué. J'attends que tu sois levé, j'attends que tu sois réveillé. Au soleil, tu m'as tellement manqué. Au soleil, j'attends que tu sois réveillé. Au soleil, tu m'as tellement manqué. J'attends que tu sois levé, j'attends que tu sois réveillé. Salutiamo Rossella dopo questo pezzo. Praticamente si discuteva con i nostri ospiti dei problemi dei tagli che ci sono in Italia, anche su quello delle province, ma in generale ospedali, tribunali, scuola. Anzi, specialmente per la scuola è stata approvata una manovra del governo che per il prossimo anno ci saranno belle sorprese. Non so come funziona in Russia il fatto dei, se c'è anche il problema economico della crisi, dei tagli all'istruzione. No, adesso in Russia secondo me non c'è questo problema, forse era prima, ma adesso la situazione è un po' più stabile e meglio. Ma secondo me c'è tante parti di Russia che è lontana da Mosca, lontana da grande città, San Pietroburgo, e piccolissimi paesi in quali anche c'è il problema con ospedale, con scuole, c'è una scuola per tre piccoli paesi, le bambine devono arrivare lontano. Ti va di parlare del fatto che prima ce l'accennavi della differenza a livello scolastico, tipo della scuola pubblica, scuola privata, come funziona anche a livello di pagamenti? Noi abbiamo questo, non di scuola, di università. Noi abbiamo due tipi di università, statale e non statale. Quale non statale, sempre la gente arriva e devono pagare per studiare. Ma in università statale c'è la parte di poste anche per pagamento e c'è la parte, c'è le poste dove paga Stato per te. Se tu fai molto bene esame per entrare in università, tu puoi studiare e non pagare. Questo tipo inizia già appena il bambino entra a scuola, cioè non paga mai a livello scolastico? A livello scolastico non si paga in generale, forse ci sono scuole private, è un po' diverso livello, un po' diverso di scuole normali, e loro pagano, ma scuole normali non pagano, scuole statali. Ma adesso fanno una cosa bruttissima secondo me, perché prima era 11 anni quando tu puoi studiare con la programma tutte le materie tranquillamente senza pagamento. Ma adesso vogliono fare la cosa che c'è 3 o 4 materie che possono studiare tutti, come la lingua, la matematica, qualcosa di generale. E tutto altro, per studiare tutto altro, deve pagare. proposito di università pubbliche e private, leggevo qui che questa mitica manovra, la spending review, ha liberalizzato le tasse universitarie ed elimina il limite del 20%. Cosa vuol dire? Questo limite vale per i fuori corso, quindi le università potranno scegliere quanto tassare il 20% dell'FFO, che è il fondo di finanziamento ordinario, che in pratica è il bilancio dell'università più o meno, a grandi linee. Quindi dopo questa modifica le università potranno scegliere di innalzare a piacimento le tasse dei fuori corso. Quindi se tu non ti lauri entro 3 anni, al quarto anno ti puoi beccare una bella mazzata in testa. E quindi non so se le classi meno abbienti potranno continuare a rimanere all'università. È una possibilità che l'università può avere, quindi queste tasse potranno anche alzarsi in maniera esponenziale. Diciamo che non è una bella cosa. Certo, Peppe, non è una buona cosa perché innanzitutto bisogna distinguere la persona tra chi viene all'università per non fare niente e chi comunque cerca di studiare, e a volte anche lo studio stesso viene, come dire, in qualche modo distanziato dallo studente stesso per problemi tipo come ci sono stati l'anno scorso per moltissime facoltà con il nuovo ordinamento. Moltissimi corsi si sono avviati in ritardo e adesso c'è gente che comunque si porta dietro esami del primo, essendo al secondo oppure del secondo al terzo. Ritornando all'università russa, è un metodo che mi piace tantissimo questo, comunque perché rispecchia proprio il concetto di meritocrazia, la vera meritocrazia. Il fatto è che comunque una volta uscita dall'università comunque siete pronto già per il mondo del lavoro. Noi di solito lavoriamo anche quando studiamo, per esempio nel secondo anno di studi tanti già lavorano, e anche da noi non c'è fuori corso. Se c'è la programma per 4 anni, tu devi finire in 4 anni, invece vai via. E dopo che tu lauri puoi lavorare, ma di solito sul lavoro non guardano sul tuo laurea, guardano sul tua pratica. E per questo lavoriamo durante il studio, perché quando finiamo l'università non è abbastanza avere solo laurea, anche pratica. E questo è molto positivo, no, Peppe? Cioè essere già preparati per il mondo del lavoro, quello che non fa l'università in Italia, diciamolo tutto chiaro chiaro. Sì, troviamo tipo anche, conosco tantissima gente laureata in economia che si trova comunque lanciata sul mondo del lavoro, che deve ricominciare a riprendere i nuovi libri perché comunque ha dei problemi. Sicuramente un vecchio detto dice che la pratica è molto più importante della grammatica. Diciamo che la vedo un pochino in maniera diversa. L'università in Italia o nel resto del mondo non è un ente che deve sfornare merci per il mercato del lavoro, ma è un ente che deve dare cultura. L'università, tu vieni a imparare, che ne so, tu devi imparare, per esempio, se hai scritto storia, ti impari la storia. Ingegneria, ti impari le cose di ingegneria. Non è che loro devono formare lavoratori, questo qui non è scritto da nessuna parte. Tu quando scrivi l'università non metti una firma e dici appena finisco l'università lavoro qua. No, quello si chiama ufficio di collocamento, non si chiama certo università. E poi soltanto che i nostri politici hanno lanciato questa parola di meritocrazia come una cosa che deve preparare la classe del domani, la classe dirigente, quella... Quindi hanno inculcato nelle teste questa storia che l'università ti deve dare il lavoro. Io la vedo in maniera un pochino diversa. Io non intendevo questo dare il lavoro, ma intendevo il fatto essere preparati per il mondo del lavoro. Cioè avere almeno le basi, cioè non penso che ognuno di noi va all'università per poi, non lo so, andare in piazza e parlare di ingegneria, chimica e quant'altro. Cioè, penso che una volta finiti gli studi ognuno di noi abbia l'esigenza di trovare magari un lavoro che può essere anche inventato dallo studente stesso, perché no, c'è tanta gente che lo inventa, però almeno essere comunque competenti in quello che si va a fare. Sì, sì, questo è un altro discorso, dico, non è che io quando finisco le armi, se trovo, andrò anch'io alla ricerca di un lavoro, perché alla fine per vivere in questo mondo bisogna lavorare, se no che fai? Dico, purtroppo sì, era bello se quando finivi gli studi tu non lavoravi e era tutto fatto, già, no? Oziavi da mattina alla sera e basta, ti arrivava a casa il pane, questo era un mondo proprio dei sogni, dei balocchi. Sarebbe splendida sta cosa. Certo che nella società devono arrivare gente competente. Quando se facciamo l'esempio di un ingegnere che costruisce un ponte deve essere capace di costruire questo ponte. Non è che arriva uno qualunque e si mette a costruire un ponte così senza sapere i calcoli strutturali che ci stanno dietro. Questo mi sembra ovvio. Però dicevo del fatto della sulla cultura, che l'università ti dà cultura e deve innanzitutto formare uomini, mente pensanti, più che gente che sa, che ne so, parlo di un informatico, gente che sa programmare in determinato linguaggio, però se questa persona non si sa comportare con le altre persone, secondo me l'università ha fallito. Deve formare uomini soprattutto. Io devo saper rapportarmi con la gente, saper parlare, poi saper anche fare, giustamente saper fare il mio lavoro, diciamo. Anche secondo me è importante lavorare non solo per soldi, ma per realizzazione personale. È giusto, è giusto. Su quello che diceva Peppe un po' ho da ridire nel fatto che nel preparare uomini, perché penso che, a parte che il sistema che in cui siamo coinvolti genera uomini di paglia il più delle volte, penso che ognuno di noi debba maturare la propria coscienza. Peppe, a proposito, manderei il pezzo dei Nomadi, Ma che film la vita, lo dedicherei ad Augusto Daol. A tutte le emozioni. fatto da stare senza fiato. Ma che fin da vita, tutta una sorpresa, attore, spettatore, tra gioia e dolore, tra il buio e il colore. Storia infinita, a ritmo serrato, da stare senza fiato. Ma che bella vita, tutta una sorpresa, attore, spettatore, tra gioia e dolore, tra il buio e il colore. Ecco, allora adesso mi sento che la... come si dice? Eccoci ritornati qui su Clandestino Cid, in diretta su Fuori Onda Radio, appunto altervista.org, dove potete ascoltarci e poi scaricare anche il podcast nell'apposita pagina. E potete contattarci su Facebook se volete dirci qualcosa, interagire con noi. Leggevo una notizia su l'Ansa, che nel 2011 sono stati 920 morti sul lavoro. Dice che è un minimo storico, che questo dato è in calo rispetto al 2010 del 5,4%. Diciamo che da una parte può essere una notizia positiva, dicendo che i morti sul lavoro sono diminuiti rispetto all'ultimo anno, ma da una parte può essere anche un dato alterato dalle non denunce. Molte persone si infortunano sul lavoro, però ricattate dai propri datori di lavoro non denunciano il fatto, e quindi questi dati non sono, secondo me, molto realistici. In Russia com'è la situazione sui morti sul lavoro? Davvero non so come la situazione sui morti sul lavoro, ma secondo me questi che hanno morto sul lavoro era lavoro non in ufficio, forse in lavoro costruisce qualcosa, non lo so. Ma io so che anche alcune aziende fanno politica responsabilità sociale per controllare questo numero di morti nel suo azienda. Questo è buono, ma forse non sempre reale. Sì, infatti una questione della prevenzione sui problemi del lavoro sarebbe una soluzione, giusto fare più controlli sui posti di lavoro da gente comunque che dovrebbe essere competente senza essere abbindolata da una mazzetta. E niente, a proposito della canzone, si leggeva che praticamente parlava della neve bianca e abbondante. Volete un po' ricordare com'è l'inverno nelle vostre parti? Perché magari noi lo vediamo sempre in televisione, qui qua, meno Mosca, meno 40 gradi, no, c'è una fontana gigante a Mosca che è sempre ghiacciata, cioè si vede, non lo so, quello che vediamo nei telegiornali. No, questo è un po' leggenda, forse stereotipo della Russia. No, in realtà le fontane chiudono per inverno. Non abbiamo meno 40, almeno a Mosca. In Siberia è possibile, ma da noi meno 20. E anche c'è neve. Per esempio qua in Italia io sentivo la mancanza questo inverno, senza neve, senza sciare. Sì, davvero, qua in Italia era solo due giorni con neve, e anche questa neve con piove, non neve vera. Un po' di mancanza. Sì, a Mosca, secondo me, non meno 20, qualche volta meno 30, ma in estate non freddo, in estate 25 gradi di sotto zero, sì, 25-28, sopra zero. E comunque leggevo una notizia, ne abbiamo parlato proprio prima, ed ecco il caso, Wikipedia lutto in Russia, in arrivo censure del web, praticamente l'enciclopedia elettronica pubblica un home page di protesta contro il progetto di legge che, con la scusa della difesa della pedofilia, rischia di creare un great firewall con quello esistente in Cina. C'era la notizia che abbiamo discusso prima. Peppe, andiamo, tu magari quest'inverno andrai in Russia per passare le vacanze invernali. Certamente andrò in Russia, come andrò come in Guatemala, in Polonia, come ogni puntata diciamo che vado là a trovarmi. Mi faccio un bel giro questo inverno, oppure l'estate, inizio dall'estate a farmi un giro del mondo. Andiamo con, dato che parliamo di mondo, una canzone di, non lo so, mandiamo un pezzo di Darkness, Giving Up. Ritornati qui, siamo in chiusura dell'ottava puntata di Clandestino City, penso che sia la penultima stagionale, o forse no, poi vediamo, vi faremo sapere. E poi comunque ci rivediamo a settembre, ci risentiamo a settembre, più che vederci, ottobre, dipende da Ciccio quando ritorna qui. Io sarò qui a settembre, si chiama ogni anno, anzi ad agosto. E volevo fare un saluto, un po' di saluti, dato che gente che ci ascolta spesso, un saluto ad Alfreda, una mia cara amica, un saluto a Luigi, a Michele, volevo fare gli auguri a Gabacio, ad Adrien che è in Francia, se n'è andato avanti ieri, un saluto pure a Ursula che farà il compleanno dopo tra 20 minuti, quindi però chiuderemo prima, quindi non gli posso fare gli auguri in diretta, gliele darò dopo a casa, non lo so. Salutiamo Antonietta che oggi ha superato un esame e basta, non lo so se Ciccio vuole salutare qualcuno. Io saluto tutta la Russia, da nord a sud, est a ovest, e specialmente le persone che abitano in Siberia, spero che questa sera abbiamo avuto l'occasione di ascoltarci, altrimenti passeremo il podcast tramite Maria e Olga. Vorrei davvero ringraziare di cuore le nostre ospiti che sono venute questa sera qui a deleggiare le nostre serate, a parlarci soprattutto della propria patria. Io vi lascio la buonanotte e vi do appuntamento alla prossima puntata, che poi non lo so, decideremo quando Peppe leggerà le famose mail. Adesso passo la parola ai nostri ospiti, che vorranno salutare sicuramente qualcuno, anche non lo so, le vostre famiglie, chi volete, ragazzi, non ragazzi, e poi andiamo avanti con la musica. Buona serata e grazie ancora. Anche noi volevamo ringraziarvi per questa serata, perché anche per noi era un piacere, anche salutare tutti i nostri ascoltatori. Non sono sicura che la mia famiglia adesso, perché c'è differenza di tempo, ma lo stesso, 2 ore di differenza. Saluto tutti. Va bene, grazie, grazie ragazzi per tutto, davvero bellissima serata, per noi questa è come nuova esperienza, saluto tutti gli ascoltatori, buona serata. Chiudiamo qui, un saluto ad Angela Lapresta, e volevo salutare Pierpaolo con una dedica, Dexifia. E mandiamo l'ultima... C'è il saluto in russo e poi mandiamo l'ultima canzone, che è di... chiudiamo con Bob Marley. Спасибо, всем доброго вечера, до свидания. Sunshine, sunshine reggae.